Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, un programma radiofonico interamente progettato intorno alla questione animale. Ma che significa la questione animale? Significa che la specie umana da sempre si chiede quale tipo di relazione sia giusto avere con gli altri animali. E purtroppo le risposte nel tempo sono sempre state di tipo violento, di sfruttamento e di sopraffazione. Oggi, per fortuna, c'è un crescente movimento che porta alla ribalta questo tema. E noi vi parliamo proprio di questa galassia, nelle sue mille diverse sfaccettature politiche, filosofiche, gastronomiche, salutistiche, artistiche e di cronaca. E poi anche il presidente del Senato Grasso ha affermato che la tutela degli animali è una questione di rilevante interesse nazionale. Allora siamo a posto. È tutto Grasso che cola. Durante la scorsa puntata abbiamo accennato al progetto Zoo Out, un documentario di denuncia sulla condizione degli animali nei circhi che è ancora in lavorazione da parte di un piccolo gruppo di attivisti indipendenti e che trovate su Facebook cercando ZOOUT. Stavolta parliamo di una grande associazione, la LAV, che ha compiuto i suoi primi 40 anni di attività e va detto che li porta molto bene. Come associazione, infatti, si è molto ringiovanita e attiva su tanti fronti diversi, da quello politico a quello culturale, ed è spesso anche in piazza per informare e diffondere le sue campagne. Ha l'opzione vegana nello statuto, cosa non banale nell'associazionismo animalista, e il suo bilancio sociale è pubblico e visitabile da tutti in rete nel sito www.lav.it. Con la sua capillare rete territoriale, la LAV è una delle più autorevoli associazioni animaliste in Italia. Questa redazione ha particolarmente apprezzato il fatto che LAV abbia portato gli attivisti animalisti in piazza contro il famigerato TTP, il Trattato di Liberalizzazione Commerciale Transatlantico, perché è raro che chi si occupa di animali faccia le connessioni e si occupi quindi anche della dimensione politica ed economica della questione animale. Ultimamente nelle cronache si è sentito parlare molto della LAV in quanto 16 macachi che venivano utilizzati per esperimenti nel laboratorio scientifico universitario di Modena e per i quali molto ci siamo battuti manifestando più volte in quella città sono stati adesso definitivamente presi in carico dalla LAV, che si è assunta la responsabilità del loro mantenimento presso il centro di recupero di Semproniano in provincia di Grosseto. Il progetto della LAV è stato ritenuto infatti il migliore tra tutti quelli pervenuti al Ministero della Salute e dell'Ambiente che si occupava del caso. Non possiamo che gioire sapendo che questi animali ai quali sono stati rubati così tanti anni delle loro vite sono usciti dall'inferno e adesso stanno bene e si sono già adattati in modo ottimale alla loro nuova casa. Certo, non è la libertà che ormai per loro non sarebbe possibile, ma i loro corpi verranno rispettati fino all'ultimo minuto della loro vita. Sempre in questi giorni la LAV ha presentato a Milano la sua nuova campagna Un bel passo avanti per un circo senza animali e contestualmente il suo nuovo e bellissimo calendario 2017 che celebra i 40 anni dalla fondazione dell'associazione. Sentiamo lo spot della campagna. Stanco di stare in equilibrio sulla proboscide? Non ne puoi più di fruste e sgabelli? Spezza le catene del circo e vieni a vivere in un centro per animali esotici. La natura e la serenità che hai sempre sognato. Per liberare gli animali dal circo non basta uno spot, ma una legge sì. Il 3 e 4 dicembre scendi in piazza con LAV e firma per chiedere al Parlamento di approvare la legge per un circo senza animali. Scopri di più su lav.it. La nostra corrispondente Roberta Marino, artista dell'intervista, ha partecipato alla conferenza stampa di LAV e ha preparato un servizio per la nostra trasmissione. Sentiamolo! Occhi che scrutano, occhi che parlano, occhi che non dimenticano. Sono quelli degli animali sequestrati e confiscati da maltrattamenti, da circhi, dal traffico della detenzione illegale, liberati e ora ospitati nel centro di recupero di Sempronano, in provincia di Grosseto. Scriveva il filosofo Jacques Derrida: «L'animale ci guarda e noi siamo nudi davanti a lui». E così ci sentiamo, di fronte ai loro sguardi penetranti, cui non possiamo sottrarci e che ci ricordano quanto siamo complici, tutti, per la violenza di un passato che resterà impressa nella loro anima. Sguardi fieri, come quello del leone Madiba, per anni rinchiuso dentro la gabbia di un circo. Malinconici, come quello dell'uro Bobo, un bovino salvato in extremis dal macello. Vividi, come quello di Rocco, un caimano costretto a vivere sotto la pavimentazione in vetro di un ristorante. Sguardi che non dimenticano e che non si possono dimenticare. La LAV le ha immortalati in 12 fotografie racchiuse nel calendario 2017 che celebra i 40 anni dell'associazione e annuncia la campagna per chiedere un circo senza animali. Ecco cosa ci ha raccontato Gaia Angelini, responsabile nazionale LAV per i settori esotici, in occasione della presentazione del calendario. Stasera presentiamo il calendario LAV del 2017 con le foto del fotografo naturalista Simone Sbaraglia, fotografo che in realtà fotografa normalmente animali in natura, liberi nei loro habitat naturali in giro per il mondo. Ci ha voluto onorare di fare il calendario per noi, focalizzandosi per la prima volta su animali che oggi vivono in cattività, animali che sono ospitati nel centro di recupero di Sempronano in Toscana, con cui la LAV ha instaurato una partnership per l'ospitalità di animali che provengono da sequestri, da circhi, da situazioni di detenzione illegale di diverso tipo. Gli animali nei circhi sono soggetti a continui trasporti e spostamenti che possono arrivare anche a coprire migliaia di chilometri o decine di migliaia di chilometri all'anno. Vivono in un ambiente etologicamente contrario alla loro natura perché sono in spazi piccoli, costretti anche a esibirsi, e questo è, diciamo, già tutto saputo e certificato. Addirittura la Federazione Europea dei Veterinari ha rilasciato una posizione nel 2015 che appunto invitava tutti i governi dell'Unione Europea a introdurre una proibizione per l'utilizzo di animali esotici nei circhi, e a questa posizione ha aderito anche l'AFNOVI, che è la Federazione Italiana dell'Ordine dei Veterinari Italiano. Quindi siamo ora in attesa di uno sviluppo legislativo che per il momento sembra in corso. Per la prima volta in 50 anni un governo ha voluto fare una proposta legislativa che, nell'ambito di un grande pacchetto di riforma del settore dello spettacolo, propone anche una dismissione progressiva degli animali dei circhi. Entrerà in calendarizzazione a breve e quindi speriamo che possa essere appunto un momento per poter mettere finalmente a breve la parola fine a questo sfruttamento inutile e culturalmente superato. Ecco, a questo si ricollega la vostra campagna che da qua a breve partirà il 3 e 4 dicembre nelle piazze. La LAV ha organizzato nel weekend del 3 e 4 dicembre e poi nel weekend successivo delle attività di visibilità, quello che è il fenomeno degli animali nei circhi, e anche di supporto appunto a Cambiamo Passo. Mettiamo finalmente una firma per un disegno di legge che cambi per sempre la vita di 2000 animali. Secondo il rapporto Eurispes 2016, il numero di coloro che si oppone al circo con animali è cresciuto dal 68 al 71% in un solo anno. In concomitanza a questa nuova sensibilità cresce anche il numero dei circhi segnalati e condannati per gravi maltrattamenti. Tra i più recenti, la denuncia ai primi di novembre del circo Nelle Orfei a Giuliano, in Campania, dove le guardie zoofile hanno rinvenuto animali malati, sofferenti e in condizioni di degrado. Dopo la campagna dello scorso anno, al circo con animali non daremo un euro, La LAV torna quindi di nuovo in piazza il weekend del 3 e 4 dicembre nelle principali città d'Italia con un bel passo avanti, chiedendo un circo davvero umano. Per informazioni sulle piazze, consultare il sito www.lav.it. Roberta Marino, corrispondente da Milano per Restiamo Animali. Torniamo a parlare del MIVEG. Il MIVEG, fiera dell'animalismo vegan che si è tenuta a Milano all'inizio del mese di novembre, come ogni fiera degna di questo nome, è un luogo in cui si fanno incontri di ogni genere. L'occasione mette infatti insieme sacro e profano, radicali e moderati, spettacolo e impegno, animalisti vegan frivoli e antispecisti politici. In questo guazzabuglio, dove ciascuno trova una risonanza rispetto al proprio percorso, abbiamo fatto molti incontri. Nella scorsa puntata abbiamo incontrato il network di Mondo Carota, specializzato nel recupero di conigli e cavie, e Lorenzo Loprete, attivista reduce da 2 anni di volontariato in Australia presso il santuario Edgar's Mission. Oggi vi presentiamo altri 2 personaggi che non potrebbero essere più diversi tra loro. Fremo per la curiosità. Ci sono tanti modi per esprimere il proprio protagonismo di attivisti, dalle piazze reali alle piazze virtuali, passando per azioni dirette, cucine, riflessioni e pubblicazioni di vario genere. Paola Re è un'attivista che possiamo definire grafomane. Fa quello che tanti giornalisti non fanno, cioè non perde occasione per denunciare chi maltratta gli animali a ogni livello. Per farlo utilizza la sua penna, sempre molto ispirata, internet e i suoi moltissimi contatti con i media locali e nazionali. Paola Re mobilita l'opinione pubblica e sensibilizza contro i maltrattamenti animali. Sentiamo il servizio. Provincia di Alessandria, un posto un po' fuori mano, ma da questo posto così decentrato partono delle missive informatissime contro qualunque ingiustizia sia perpetrata nei confronti degli animali da istituzioni, enti pubblici, supermercati, sagre, fiere, Luna Park, eccetera. A scrivere queste missive al peperoncino è una certa Paola Re. Sappiamo tutti che cosa succede, non so, i mattatoi, i circhi, gli zoo, sono quelle violenze, come dire, istituzionalizzate che vediamo sotto gli occhi. A volte mi arrivano certe segnalazioni, per esempio su certe feste, certe lotterie. Io non ci credo, eppure pesa il maiale, conta gli anni dell'asino, le lotterie, gli animali in premio. Uno non pensa che si arrivi al punto di regalare un animale perché magari si è indovinato l'indovinello, cose del genere, che sono proprio al limite dell'assurdo. Un animale naturalmente vivo. Ah sì, certamente vivo. E le proteste sono poi seguite, perché il senso di una protesta è che abbia un seguito. C'è molta adesione. E quando qualcuno ci risponde, perché devo dare atto che a volte ci sono anche sindaci, presidenti di Proloco, presidenti di comitati palio, così, che ci rispondono anche. E la prima cosa che ci dicono è: noi amiamo molto gli animali. Ecco, è questo che ci fa pensare che razza di modo di amare gli animali. Io dico sempre: gli animali non hanno bisogno di essere amati, a loro non importa niente, magari di essere rispettati. Io sono anche abbastanza fissata sui pesci, proprio perché i pesci non se li guarda nessuno, cioè sono gli ultimi degli ultimi degli ultimi. C'è stata una gara di pesca per bambini in un paese del Novarese, in un laghetto del Parco del Ticino, paese vicino a Galliate. Ho scritto al sindaco, il sindaco mi ha telefonato addirittura, Giovanni Del Conti, faccio anche il nome perché mi ha comunque risposto ufficialmente, è stato gentilissimo e mi ha detto: la ringrazio molto per la segnalazione, perché anch'io sono inorridito da questa cosa. Si è dimostrato civile a dire: anch'io non sono d'accordo, perché ai bambini non bisogna insegnare ad uccidere, comunque non è che fa tanto piacere un amo piantato nel palato di un pesce, poi comunque togliere un pesce dal suo habitat, passarlo nelle mani, insomma è una cosa assurda. È il terrore per questo animale. Assolutamente. E lui mi ha detto: ma innanzitutto non sono stato consultato, non avrei mai dato l'autorizzazione, e questa non è altro che una buona notizia, perché ricordiamoci che tutti questi spettacoli con animali assurdi hanno comunque bisogno dell'autorizzazione. La cosa che fa ancora più rabbia è quando c'è il patrocinio. A proposito di lotterie di animali, c'è stato un altro comune nell'Alessandrino, avevano fatto la lotteria dando in premio un maialino, abbiamo scritto e il comune era piccolissimo, quindi quando inondi un comune con 1000 mail, immagina, in un giorno, hanno abolito questa lotteria. L'hanno annullata, quindi qui è stata efficace. Ci sono i supermercati che adesso hanno messo gli acquari proprio con dentro questi pesci vivi, e uno se lo va a scegliere. Io a volte dico: ma queste sono le cose che fanno proprio pensare, empatia sotto zero, non zero, ma anche perché al supermercato ci vai con tuo figlio, tua figlia, ma tu immaginati un bambino che vede quelle cose. Nel mio Piemonte andiamo forte con le fiere del bestiame, perché adesso noi iniziamo a scatenarci a fine novembre, iniziano a partire con il ponte, quello dell'Immacolata, l'avvio del Natale, no? Questa festa che dove si mangia. E noi abbiamo le fiere del bestiame, il Cuneese proprio è la culla, no? Del massacro. Tu vedi questi buoi, si chiamano proprio fiere del bue grasso, Carrù, Moncalvo, Montichiari, e questi buoi che li vedi ti viene da piangere, pesano quintali e quintali, non riescono neanche a muoversi, perché comunque l'ingrasso del bue grasso è questo, cioè continuano a mangiare e diventano, fino a che non raggiungono tot quintali per essere macellati, e poi danno il premio. Queste fiere sono una sorta di sfilata di bellezza, perché premiano a seconda della coscia, della dentatura, quindi ovviamente premiano su quanto un animale è considerato bello, e poi premiano il bue grasso più grasso, eccetera. E questo qui naturalmente andrà ucciso per Natale, perché le fanno tutte a fine novembre, primi di dicembre, quindi uno va lì già per vedere gli animali che andranno in tavola. Devo ringraziare quelle 3 o 4 persone per regione che mandano le segnalazioni, ed è importante averle per regione, serve molto, ecco, non sono mai sola. Paola Re, restiamo animali? Restiamo animali, i più oppressi. Make love in a train. Cross country. You put this on me. So now. Dopo Paola Re, sempre al MIVEG, abbiamo incontrato un sex symbol. Wow. Come Valerio Pino, che è passato da Amici a Sanremo. Poi qualcosa è cambiato per lui, perché Valerio Pino ha cominciato a farsi vedere sempre più spesso alle manifestazioni di piazza del PACMA contro le corride spagnole. Come sentirete nel servizio, la liberazione animale può anche rappresentare un'occasione di cambiamento e ripensamento, un salto di qualità nella consapevolezza personale e sociale. Sono con Valerio Pino, ballerino professionista in tante trasmissioni televisive molto note, Amici, Sanremo. Valerio, raccontami come sei arrivato a questa sensibilità, a questa tematica. Sono venuto apposta dalla Francia, ero in Francia e ho detto no, quest'anno voglio esserci. I miei figli, i miei cani in Italia e poi vabbè, il mio cane insomma che ho con me in Spagna e insomma viaggia insieme a me, mi ha aiutato moltissimo. Poi tutte le manifestazioni del PACMA e quindi questo si unisce insomma all'attivismo quando posso, si unisce alla denuncia, si unisce ovviamente poi ad uno stile di vita vegan e a dire ma allora quindi io sono antispecista. Un altro salto di qualità che ovviamente è arrivato, perché poi arriva piano piano, è una catena che ovviamente poi tutto trova un senso. Sono due anni bellissimi dove si scoprono delle cose fantastiche che noi possiamo fare, dove si scopre che possiamo anche essere padroni della nostra mente, delle nostre azioni, dei nostri soldi e di tutto, e possiamo scappare da questa galera, la galera del sistema, possiamo fuggire e possiamo essere liberi. Quindi per me è stato questo, è stata una liberazione, ce l'ho fatta. Il senso è quello, adesso sono libero, decido io chi sono, cosa faccio, cosa mangio, cosa compro, cosa vesto, e dove e come investo il mio tempo, il mio denaro e chi voglio aiutare. Quindi poter aiutare gli indifesi, poter aiutare tutti gli animali che poi sono di una nobiltà e di una bellezza, soltanto guardarli negli occhi. È impossibile poter pensare di fargli del male. E allora lì è cambiato tutto. Comunque è importantissimo per me oggi, sia in un programma di televisione, sia in un'intervista, sia in questi settimanali, che tanto si criticano e si giudicano, però arrivano al pubblico e arrivano alle persone, arrivano alla gente. Anche in un contesto di programma superficiale, banale, però io poter dire che sono vegano, poter difendere gli animali, ecco, tutto ha un senso per me oggi e quindi è tutto concentrato in quello ed è bello. Sono molto felice oggi, sto bene con me stesso, sto benissimo con i miei amici vegani, con i miei amici animalisti, antispecisti, attivisti, e siamo e saremo sempre di più. Quindi Vegan Power e andiamo avanti, continuiamo così. Valerio Pino, restiamo animali? Sì, restiamo animali. Bravo il nostro Valerio Pino, ex burattino emancipatosi oggi in animalista, antispecista e vegan. Per festeggiare la conversione vi proponiamo una ricettina marina in rima. L'inzimino di Valerio Pino, a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. questa puntata che profuma di mare, la rivisitazione senza crudeltà di una famosa quanto gustosa ricetta tipica toscana, l'inzimino. Gli ingredienti per 4 persone sono un chilo di bietole o spinaci freschi, un cucchiaio di alghe rame essiccate, 100 g di farina tipo 0, 50 g di farina di ceci, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di aceto di mele, una cipolla bianca, una costa di sedano, uno spicchio di aglio, un peperoncino, la scorza di mezzo limone, un bicchiere di vino bianco, sale e pepe e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Sapore di mare. Iniziate reidratando le alghe rame con un bicchiere di acqua. Nel frattempo lavate bene le bietole o gli spinaci. Scolate le alghe e conservate il liquido di ammollo. Tritate il sedano e la cipolla, fate scottare con mezzo bicchiere di acqua e quando il liquido sarà completamente evaporato aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e fate rosolare per 5 minuti. Quindi unite la scorza di limone, l'aglio, il peperoncino e le alghe tritate finemente. Lasciate soffriggere qualche minuto e bagnate col vino bianco. Sapore di sale, sapore di mare. Lasciate evaporare bene e aggiungete le verdure lavate e scolate. Fate cuocere nella loro acqua coprendo con un coperchio. A parte preparate una pastella mescolando le farine assieme al bicarbonato, al sale, l'olio e l'acqua di ammollo delle alghe. Mescolate fino ad ottenere una pastella cremosa simile a quella per la frittura e se necessario aggiungete altra acqua. Unite l'aceto di mele e mescolate un'ultima volta. Sapore di sale, sapore di mare. Con una padella antiaderente, spennellata di olio, formate delle frittelle abbastanza spesse. Fate freddare e successivamente tagliatele a strisce di 1 cm di larghezza per 4 di lunghezza. Unite le strisce di pastella alle verdure, aggiustate di sale e pepe e lasciate insaporire qualche minuto. Servite con un giro di olio a crudo e del pane tostato. Sapore di sale. E ricordiamo che il nostro valoroso collaboratore culinario Gabriele Palloni è in tutte le librerie con il suo ultimo libro, La cucina regionale italiana vegana, edizioni Newton Compton. 250 ricette illustrate a soli €12,90. Disponibile anche in ebook. Intera puntata senza cattive notizie? Camilla, non è da te. Secondo me, gli addominali di Valerio Pino ti hanno stordita totalmente. Sono ancora lucida, Giuseppe, e te lo dimostrerò con una notizia che è stata pubblicata in Inghilterra sul Guardian e ripresa dal quotidiano nazionale in Italia. In Tanzania, una ONG belga sta provvedendo ad addestrare, senti un po', niente po' di meno che dei ratti poliziotto. I ratti poliziotti, dall'odorato finissimo come quello dei cani, ma molto più piccoli e agili, in grado di intrufolarsi fra i container delle navi per scovare i carichi illegali di legno e di animali protetti. I commissari Mickey Mouse vengono addestrati in Tanzania dalla ONG belga Apopo, che conta di usarli fra un anno per combattere il contrabbando di legno pregiato e di pangolini, una delle specie animali africane più a rischio. Lo riferisce il quotidiano britannico Guardian sul suo sito internet. I pangolini, sorta di formichieri coperti di scaglie dure, vivono in Asia e in Africa e sono ricercatissimi in Cina e Vietnam per la loro carne e le loro scaglie, usate nella medicina tradizionale di queste nazioni. È una notizia abbastanza terrificante? Ma diciamo di sì. Sono contenta di averti soddisfatto. È tutto per questa puntata. Ripassiamo a memoria tutte le voci che l'hanno realizzata e che sono state quelle di Gaia Angelini, della LAV, Roberta Marino, Paola Re, Valerio Pino, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Giuseppe Coco e la drammatica Camilla Lattanzi. Con la trasmissione Restiamo Animali, l'appuntamento è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.